giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 639 posti da infermiere messi a concorso, se ne presentano 400, ma solo poco più di 100 risultano idonei. È la storia della selezione bandita dalla regione. I sindacati esprimono preoccupazione, stimano che alla fine dell'anno le carenze saliranno a 1500 unità. Dopo le villette, ecco il bando per il fotovoltaico dei condomini. Le domande dal 30 marzo fino a metà novembre. Sarà possibile ottenere incentivi fino al 40% del costo totale per l'installazione di impianti elettrici, accumulatori e solari termici. Rischio di effetto a cascata su cittadini, imprese edili e mercato immobiliare. Potrebbe essere questo il risultato delle nuove norme sul superbonus 110%. In un convegno a Udine ieri le possibili vie d'uscita. Processo da rifare. Si celebrerà a Venezia il nuovo giudizio d'appello contro Don Paolo Piccoli, che in secondo grado a Trieste era stato già condannato a 21 anni di reclusione per l'omicidio nel seminario del prete Don Giuseppe Rocco. La Cassazione ha annullato il giudizio. La tragedia di giovedì sera, quando a Trieste un padre affetto da disturbi psichici ha ucciso il figlio disabile. Disagio sociale psichico, lo sfondo di una famiglia che era seguita dai servizi sociali e da una ministra di sostegno. Uno studente su sei in Friuli Venezia Giulia viene da un altro paese. Nella scuola primaria la concentrazione è maggiore. Complessivamente la popolazione straniera rappresenta il 10% del totale, con un aumento dell'1,5%. I dati nel dossier immigrazione dell'ANOLF. Grandi aspettative fra commercianti, albergatori, ristoratori e altri esercenti di Udine per la adunata alpina di metà maggio. Ma l'Associazione Nazionale Alpine ha siglato con le associazioni di categoria accordi per calmierare i prezzi e evitare speculazioni. Profumi di primavera a Villa Manin, oggi e domani la mostra florovivaistica nel giardino del Doge. A Trieste, viale 20 settembre, si riempie di colori con 35 espositori di piante e fiori e attrezzature da giardino. Sono stati già tradotti in 40 lingue i libri scritti da Amélie de Kerangal, la scrittrice francese, che da oggi sarà protagonista della 29esima edizione del Festival Pordenonese Dedica. In cartellone per la kermesse 12 appuntamenti fra libri, teatro, cinema e musica per conoscere meglio un'autrice che affronta temi di attualità. Sport, calcio al Friuli alle 20.45, Udinese-Milan. La squadra sta bene, veniamo da risultati importanti, dice mister Sottil nella conferenza stampa della vigilia. I ragazzi hanno tutti alzato il proprio livello, la cura dei dettagli e la concentrazione. Siamo molto determinati. È sabato 18 marzo 2023, sono le 7:21 minuti. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Maria Spezia e Antonio Cagliazza. E vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è sereno sulla regione. Ecco le temperature registrate alle 6. A Trieste 5 gradi, a Udine 3, a Gorizia a Pordenone 2,5. Tarvisio 3 gradi, Forni di sopra 0, Tolmezzo meno 5 decimi di grado, Piancavallo meno 2, Sappada meno 2,5, Monte Lussari e Monte Zoncolan 0, a Grado 7,5, a Lignano 1,5. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: cielo da sereno a poco nuvoloso, per velature più estese nella seconda parte della giornata. Da pomeriggio e sera generale aumento della nuvolosità anche a quote medio-basse, specie sulla zona montana. Venti a regime di brezza, zero termico intorno ai 3000 metri con inversione termica nelle valli. C'è fame di infermieri negli ospedali e nelle strutture sociosanitarie e c'è anche fame di lavoro. Eppure un corposo concorso regionale per reperire oltre 600 paramedici non è neppure arrivato a conclusione e gli idonei sono già appena un centinaio. In poco più di un centinaio hanno superato nei giorni scorsi la prova scritta del concorso regionale per 639 posti di infermiere e ora si apprestano a sostenere quella orale. Al test si erano presentati in circa 400, guardando azienda per azienda una ventina gli ammessi in quella del Friuli Occidentale, dove ne servirebbero quattro volte tanti, una quarantina gli idonei nella Friuli Centrale su 240 posti da coprire, 53 nella Giuliano Isontina contro 308 carenze, nessun ammesso in ARCS, l'azienda regionale di coordinamento coordinamento per la salute, cui spetta organizzare il concorso e che di infermieri ne aveva richiesti 6. Numeri impietosi diffusi da FIALS, CISL e CGL insieme ai risultati delle prove pubblicati in queste ore da ARCS. In una nota congiunta i 3 sindacati esprimono tutta la loro delusione e preoccupazione per il risultato che ha spento le aspettative su una graduatoria regionale di infermieri in grado di compensare la cronica carenza di personale. Molti dei professionisti non ammessi stanno già lavorando nelle aziende regionali da precari in attesa del prossimo concorso o di una nuova stabilizzazione o peggio di essere assunti in altre regioni, rimarcano ancora FIALS, CISL e CGL, per i quali serve ripensare ai concorsi aziendali anziché centralizzarli a livello regionale. Così anche il presidente provinciale dell'Ordine degli Infermieri di Udine, Giglio, che parla di occasione persa anche a fronte di un imminente piano ferie estivo che vedrà grosse difficoltà. La strage degli infermieri la chiamano invece Will e Nursind, in una nota in cui altrettanto preoccupati rilevano che in tutta la regione mancano un migliaio di infermieri e stimano che quest'anno tra pensionamenti e dimissioni la carenza aumenterà fino a 1500 unità. C'è una criticità di livello nazionale, riconosce anche il direttore di ARCS Polimeni, che riguardo all'esiguo numero di ammessi rimanda alla commissione d'esame e sulle critiche dei sindacati alla centralizzazione dei concorsi replica che in Friuli Venezia Giulia si è scelta questa strada. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Da fine mese i condomini potranno chiedere i contributi regionali per l'installazione di impianti fotovoltaici che potranno però alimentare solo parti comuni. Tra le difficoltà segnalate dagli amministratori, tempi lunghi e i vincoli paesaggistici e architettonici. Dopo il via libera per gli immobili singoli, la Giunta ha approvato il bando per il fotovoltaico dei condomini. Le domande potranno essere presentate dal 30 marzo prossimo fino a metà novembre. Il provvedimento permette di ottenere incentivi fino al 40% del costo totale degli interventi realizzati a partire dallo scorso 1 novembre per l'installazione di impianti fotovoltaici, accumulatori e solari termici. Il bando è stato messo a punto dagli uffici della regione dopo un confronto con gli amministratori dei condomini che li hanno istruiti su tutte le difficoltà del caso, a partire dai tempi lunghi. Tra di loro c'è Emanuela Gorgone, presidente della ANACI di Udine. Bisogna deliberare in una prima assemblea di partire con la progettazione, poi bisogna far eseguire questa progettazione, richiedere le offerte e ritrovarsi in una successiva assemblea per poter poi nuovamente decidere se procedere o meno. Un altro limite è che i condomini ad oggi possono ricevere dal fotovoltaico solo energia elettrica per le parti comuni, non per le singole abitazioni. Non sono molti che hanno situazioni abbastanza impegnative di consumo energetico, quindi di conseguenza lo potranno valutare unicamente i condomini che hanno queste caratteristiche. Il tutto senza considerare i paletti dei regolamenti comunali scritti prima della crisi energetica dello scorso anno e orientati a tutelare soprattutto il paesaggio e l'architettura. Ma d'altro canto adesso si ravviserà sempre di più l'esigenza di trovare soluzioni alternative di produzione di energia necessarie per poter sostenere quelli che sono veramente dei costi in questo momento insostenibili. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E intanto la proroga del super bonus per le villette unifamiliari è praticamente inattuabile, mentre il blocco delle cessioni del credito e degli sconti in fattura stanno paralizzando il settore. Le nuove norme sul super bonus 110 rischiano di creare un dannoso effetto a cascata sui cittadini, sulle imprese edili che tanto hanno beneficiato dopo un periodo di crisi dovuto alla pandemia, ma anche sul mercato immobiliare. Di come uscire da una palese situazione di stop e di rilancio dell'iniziativa si è parlato in un affollato incontro alla Camera di Commercio di Udine, organizzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e da Consumatori Attivi, alla presenza di tutti gli attori. Roberto Contessi, presidente regionale Associazione Costruttori Edili. La gente è spaventata, ci sono molti casi di persone che si sono fidate di certi intermediari che dopo non avevano niente alle spalle, quindi erano proprio costruiti per perpetrare delle truffe al cittadino, e quindi molti cittadini che si sono fidati perché non avevano coscienza, adesso, a parte diciamo quelli che hanno fatto i lavori e che adesso non riescono a scontare diciamo le somme economiche, molti si trovano anche a non aver fatto i lavori e dover rispondere per parecchie migliaia di euro. Stefano Nursi, presidente regionale Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Sicuramente ci sarà un po' di ripercussione a livello anche delle compravendite, e nel frattempo sta arrivando anche la direttiva europea Green, che non aiuterà il mercato se non verrà tarata in maniera diversa. Di modifiche, di un miglioramento della normativa auspica la Presidente dei Consumatori Attivi Barbara Puskeasis, se il fine è quello di arrivare con le carte in regola alla nuova normativa approvata pochi giorni fa dal Parlamento Europeo sulle case green. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. La Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado della Corte d'Assise d'Appello di Trieste che aveva condannato a 21 anni di reclusione Don Paolo Piccoli, sacerdote della diocesi dell'Aquila, per l'omicidio di un prete che viveva con lui nel seminario per pensionati di Trieste. A richiedere l'annullamento del processo era stato anche il procuratore generale. Il nuovo processo di secondo grado si svolgerà davanti alla Corte di Assise di Appello di Venezia. Il fatto risale al 25 aprile 2014. Secondo l'accusa, Don Paolo Piccoli, 56 anni, in pensione per motivi di salute, ex parroco di Pizzoli e Rocca di Cambio in provincia dell'Aquila, era accusato di aver strangolato Giuseppe Rocco, prete di 92 anni. Secondo quanto si è appreso, la decisione della Cassazione riguarderebbe la violazione del diritto alla difesa per la mancata presenza di consulenti di parte dell'imputato in occasione della perizia relativa agli accertamenti tecnici del RIS di Parma sulle tracce di sangue e alla consulenza autoptica, prove che, secondo la Corte, non sarebbero state ammissibili. Questa mattina, intorno alle 4:30, è scoppiato un incendio a Cormons, in via Gorizia, in un appartamento al piano superiore di un edificio di 2 piani. Non note le cause delle fiamme partite dal bagno dell'appartamento, che hanno reso del tutto inagibile l'intero stabile. Il rogo, già domato dai vigili del fuoco di Gorizia, ha provocato il ricovero dell'inquilino del piano superiore per accertamenti all'ospedale di Gorizia e il proseguimento delle cure in ospedale della persona ammalata che vive al piano inferiore. L'allarme ai vigili del fuoco era partito dallo stesso inquilino dell'appartamento in cui è scoppiato l'incendio. È indagato in stato di libertà l'uomo di 67 anni che giovedì pomeriggio a Trieste ha ucciso il figlio disabile di 38 anni, tentando poi di suicidarsi usando lo stesso coltello. Per l'anziano, ricoverato all'ospedale di Cattinara, non è stato disposto l'arresto. Era giunto al nosocomio in codice rosso e ora non sarebbe più in pericolo di vita. Ce l'aspettavamo sicuramente, c'è sicuramente una grande amarezza, anche perché sono persone conosciute da tempo e quindi con cui si era anche stabilita una relazione, insomma. Scossi e addolorati gli operatori del centro di salute mentale di via Gambini a Trieste, a partire dalla responsabile Elisabetta Pascolo, che conosceva da anni il signor Marino Petronio, l'uomo affetto da disturbi psichici che ha accoltellato a morte il figlio disabile psichico di 38 anni per poi tentare di togliersi la vita. Pascolo aveva contattato i familiari del signor Petronio appena aveva saputo della morte della moglie domenica scorsa per infarto, Antonella. La famiglia d'origine però ci ha spiegato non aveva contatti con l'uomo da molti anni. Per lunedì 20 marzo era fissato un incontro tra servizi sociali per capire che tipo di supporto dare a questo padre rimasto solo e con una situazione di estrema fragilità. È stato appunto per lunedì un incontro di rete proprio per trovare una soluzione che poteva essere quella di un inserimento del figlio in una situazione comunitaria o di creare un supporto domiciliare. Nonostante la carenza cronica di personale, il servizio infatti dalla pandemia lavora sulle 12 ore e non più sulle 24, è stato fatto il possibile, dicono gli operatori. La madre era affiancata da alcuni anni da un'amministratrice di sostegno, una legale che abbiamo contattato ma che ha scelto di non esporsi. Alberto, la vittima, frequentava tutti i giorni il CEST, una struttura diurna per ragazzi con le sue disabilità, ma al rientro a casa tutto era sulle spalle di questa donna, inserviente in una scuola, da tempo malata, faticava a camminare, raccontano i vicini, era la colonna della famiglia, venuta a mancare lei, improvvisamente tutto è crollato. Secondo me era dura per loro, con un figlio così non è facile. Le dirò che non ho dormito questa notte. E quindi li vedevo molto molto sofferenti, ecco, diciamo, no? Non erano così socievoli, no? Vuol dire, se c'era un problema se lo tengono, no? Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti politici in vista delle elezioni del 2 e 3 aprile. Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, continua il suo tour in regione per sostenere la campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra con Possibile. Oggi sarà nel collegio di Pordenone, alle 11:30 al caffè municipio del capoluogo, nel pomeriggio a Sesto al Reghena, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento. In regione oggi anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, in programma un appuntamento a Sacile alle 9.30 e poi alle 11 a Spilimbergo nella Piazza del Mercato. Nel pomeriggio sarà alle 18 a Trieste all'Hotel Savoia Excelsior. In Friuli Venezia Giulia anche Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera dei Deputati. Oggi partecipa ad un incontro sul reddito di cittadinanza e Mia alle 10 al bar Libreria Knulp a Trieste. Con lui anche il senatore Stefano Patuanelli. Nel pomeriggio Fico sarà a Monfalcone e a Gemona. Il candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione, Massimo Morettuzzo, fra i diversi appuntamenti della giornata, parteciperà a un incontro del Partito Democratico a Pradamano, nella sala polifunzionale del municipio, alle 18.30. Amministrative di Udine, il candidato sindaco del centro-sinistra, Alberto Felice De Toni, partecipa a un incontro sul tema della città digitale, nella sala della Torre di Santa Maria, la sede di Confindustria Udine, alle 17.00. Aumenta il numero dei ragazzi stranieri nelle scuole, sono un sesto del totale. Cresce anche il numero di inserimento, sono i dati diffusi dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'ANOLF, l'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere. Nell'anno scolastico in corso uno studente su sei in Friuli Venezia Giulia è straniero. Il dato comprende tutte le scuole statali e paritarie di infanzia, primarie, medie, superiori e scuole per adulti. Sul totale di studenti, pari a 151.014, non italiani sono 24.837, pari al 16,44%. Alla scuola primaria c'è la concentrazione maggiore di alunni stranieri. Per avere un termine di paragone, in Lombardia non si arriva ad avere uno studente su 5. Altri dati sull'immigrazione arrivano dal dossier sul Friuli Venezia Giulia presentato a Trieste dall'Associazione Nazionale Oltre le Frontiere, ANOLF, promossa dalla CISL. I dati provvisori, relativi in questo caso al 2021, indicano un leggero aumento dei residenti stranieri, più 1,5%. Rappresentano il 10% della popolazione, ma anche dei lavoratori del Friuli Venezia Giulia. Per lo più si tratta di giovani divisi equamente fra uomini e donne. Quasi un residente straniero su tre appartiene alla fascia d'età che va dai 30 ai 44. I permessi di soggiorno sono 77.859, per la maggior parte si tratta di permessi di lungo periodo, a riprova dell'alto livello di stabilità raggiunto dalle collettività straniere presenti in regione. A livello provinciale si distribuiscono per quasi un terzo nel pordenonese, seguono Udine, Trieste e Gorizia. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Alpini e associazioni di categoria si mettono insieme per bloccare eventuali tentativi di speculazione in vista della grande adunata nazionale di Udine. Contiamo che sia un ritorno molto importante, stimiamo che sia intorno alle 100 volte il fatturato investito. Sono grandi le aspettative delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti per la adunata dell'11 e 14 maggio a Udine. L'ANA, Associazione Nazionale Alpini, ha siglato con entrambe una convenzione per calmierare i prezzi dei prodotti alimentari, ma non solo. Confcommercio ha optato per non dare indicazioni stringenti ai ristoranti. Per i bar la proposta di calmierare i prezzi del calice di vino, del bicchiere di birra e del panino. Nei negozi alimentari verrà proposto un box alpino contenente diversi prodotti a prezzo promozionale. Tutti riceveranno un kit per allestire le vetrine a tema e le attività aderenti figureranno in sito e app ufficiali della adunata. A 10 giorni dalla firma, ci dicono, le adesioni hanno iniziato a valicare i confini del capoluogo friulano e arrivano a decine, da Tarvisio a Lignano. In molti aspettano comunque l'ultimo momento, anche per conoscere quale sarà il percorso della sfilata. Raffaele Pizzoferro, vicepresidente della FIPE Confcommercio di Udine. Contiamo di fare il tutto esaurito e non solo tutte le sere. Abbiamo già allertato alcuni ragazzi che vengono a darci manforte, a darci una mano, e siamo pronti a 4 giorni di una bella e grande festa. I centinaia di migliaia di visitatori attesi potranno rivolgersi anche alle osterie per menù a prezzi bloccati. Marco Zoratti, presidente di Confesercenti Udine. Abbiamo dato questo segnale a una trentina di osterie di offrire degli ottimi piatti accompagnati con il vino, ma che non superino mai i 14 euro. proprio per dare questo segnale, questo segno di accoglienza e di non approfittare troppo alzando i prezzi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il nuovo sistema della raccolta differenziata a Pordenone non trova il consenso dei commercianti. Come sta andando? Non troppo bene, perché soprattutto per noi esercenti la raccolta fatta una volta alla settimana è troppo poco, soprattutto per la plastica e il secco. Continua a far discutere la questione immondizie a Pordenone. In un recente sondaggio di Ascom Confcommercio alla domanda «è soddisfatto del nuovo sistema di raccolta?», il 63% dei commercianti ha risposto negativamente. Non convincono in particolare la frequenza della raccolta della plastica una volta alla settimana e lo spazio per lo stoccaggio dei rifiuti. Nel mio caso adesso funziona bene, però vedo che in giro potrebbe essere meglio. Che cosa potrebbe essere migliorato? Ma secondo me la frequenza, perché come nel caso della plastica, una volta sola a settimana è un po' pochino. Nei periodi di cambio stagione per i negozi abbiamo veramente un volume molto grande. Quindi qual è la richiesta? Beh, sicuramente di ampliare un attimo di più il servizio. Per quanto riguarda lo spazio per i contenitori, è sufficiente? Abbiamo creato uno spazio sotto il banco per nascondere anche il raccoglitore, perché non è bello da vedere. Quindi questa raccolta differenziata, signora, promossa, rimandata? Un po' rimandata. Se provvedono a ripristinare la raccolta due volte alla settimana, ci farebbe piacere. Continueremo a segnalare eventuali migliorie, dice Federico Ingargiola, presidente del mandamento di Pordenone per Ascom Confcommercio. Il periodo di adattamento al nuovo sistema è ancora in corso e il confronto con l'amministrazione è aperto. Abbiamo insomma ampie rassicurazioni che le problematiche verranno affrontate e risolte insomma nel più breve tempo possibile. Il canale è aperto di confronto e quindi insomma siamo positivi e fiduciosi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono un centinaio gli espositori da tutta Italia che partecipano alla mostra florovivaistica nel Giardino del Doge a Villa Manin, manifestazione giunta alla 16ª edizione dedicata al verde, alla sua manutenzione, alla cura delle persone attraverso il verde. L'iniziativa in calendario oggi e domani proporrà prodotti della natura e momenti di riflessione su semi e biodiversità grazie all'intervento di autori come Salvatore Ceccarelli, Stefania Grando e Angelo Floramo. In cartellone anche una mostra fotografica dedicata ai fiori e la caccia al tesoro per i giovanissimi. L'apertura dell'esposizione alle 9. Ha invece come protagonista il fiore la 19ª edizione della manifestazione floreale Trieste in fiore, delizie di primavera, mostra mercato florovivaistica. In calendario fino a domenica prossima, 26 marzo, l'iniziativa specializzata in fiori, giardini e piante darà modo di conoscere numerose specie vegetali, dalle piante grasse del Piemonte agli alberi da frutto del Veneto, dagli agrumi della Sicilia alle palme e alle novità del settore florovivaistico, messe in mostra da 35 espositori che saranno ogni giorno a disposizione del pubblico per offrire consigli e informazioni. Appuntamento Trieste in Viale 20 Settembre dalle 10 con ingresso libero. 20° anniversario per la Casa delle Farfalle di Bordano, che da oggi riapre le serre fino a ottobre con orario dalle 10 alle 18. Due gli eventi organizzati dalla Polizia Locale di Pordenone, cioè la cerimonia di consegna della bandiera del Corpo del Distretto di Polizia Locale Friuli Occidentale e il giuramento degli agenti assunti nel 2022. Il Vescovo Giuseppe Pellegrini benedirà la bandiera alla presenza del comandante del Corpo di Polizia Locale, Maurizio Zorzetto, a Pordenone in piazza 20 Settembre dalle 16:15. Saranno 19 le attività commerciali di Tarvisio e Moggio a offrire sconti fino all'80% in occasione dello sbaracco organizzato oggi a Tarvisio. L'iniziativa di Confcommercio Federmoda, che ne ha posticipato la data per questioni climatiche, consente così una buona affluenza di clientela. Sarà la scrittrice francese Maëlie de Kerangal la protagonista della 29ª edizione del Festival Dedica, in calendario per 8 giorni, che proporrà 12 appuntamenti fra libri, teatro, cinema e musica per approfondire il lavoro di un'autrice che è considerata tra le maggiori firme contemporanee. Primo appuntamento, quello in programma al Teatro Verdi di Pordenone alle 16:30, in cui l'autrice riceverà il sigillo della città. A Claudio Cattaruzza, organizzatore della rassegna, abbiamo chiesto una presentazione della protagonista di quest'ultima edizione di Dedica. Una scrittrice pluripremiata, una scrittrice francese che ha al suo attivo una sterminata bibliografia. In Italia sono stati pubblicati 6 romanzi, ma in realtà in Francia e negli altri paesi sono molti di più. È una scrittrice tradotta in oltre 40 lingue, è considerata una delle voci più importanti della narrativa femminile contemporanea e quindi, dato che la sua scrittura è una scrittura estremamente densa e soprattutto attuale, perché affronta una varietà di temi che hanno tutti agganci con l'attualità. Quali sono i temi che più vi hanno attratto nello scegliere Malide Kerangal come protagonista? Diciamo che il libro che mi ha folgorato inizialmente è stato quello di Riparare i viventi, cioè che è la storia di un trapianto di cuore, e qui dimostra la grande profondità della scrittura di Le Kerangal, la sua profonda conoscenza anche di materie che sono estremamente complicate, sia da un punto di vista, chiamiamolo così, tecnico, ma anche da un punto di vista di coinvolgimento emotivo. Poi ci sono altri libri, Nascita di un ponte, che è una metafora, i ponti congiungono diverse situazioni e quindi non creano separazioni, per arrivare poi a Canoe, cioè una raccolta di racconti, cui faremo anche una lettura scenica durante il festival. Tra gli vari eventi vedo che ci sarà anche l'anteprima nazionale del nuovo romanzo dell'autrice, sì. Fuga Est. Il libro è uscito il 7 di marzo ed è una storia attuale e interessante, anche se il romanzo in Francia è uscito qualche anno fa. E quindi la storia di un intreccio, diciamo, di relazioni fra una donna francese che si trova sulla Transiberiana in fuga da un amore che è finito e una giovane recluta dell'esercito russo che invece è in fuga proprio dal fatto di avere questa coscrizione obbligatoria e quindi di essere in qualche modo costretto ad andare a servire lo Stato in Siberia. Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana saranno i protagonisti della commedia Tre uomini e una culla, che propone la versione teatrale del film omonimo e il suo medesimo mix di tenerezza e divertimento. Sul palco la vicenda di tre scapoli che occupano il loro tempo libero organizzando feste, cene e incontri galanti, fino a che la figlia di pochi mesi di uno dei tre, in modo del tutto inaspettato, farà loro capire il valore degli affetti e della solidarietà. A Udine, al Teatro Nuovo, alle 20.45. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio di Serie A. Sfida casalinga oggi per l'Udinese, che allo Stadio Friuli alle 20.45 incontrerà il Milan dopo i campi difficili delle scorse partite contro Atalanta ed Empoli. L'allenatore dei bianconeri, Andrea Sottile, nella conferenza stampa della vigilia si è detto fiducioso a fronte della maggiore concentrazione dimostrata dai giocatori. Ascoltiamolo. La squadra sta bene, veniamo da due risultati importanti su due campi molto, molto difficili contro l'Atalanta, una squadra fortissima, l'Empoli è un'ottima squadra, un campo sgorbutico, secondo me i ragazzi hanno alzato il livello prestativo a livello singolare e l'hanno messo completamente a disposizione della squadra, hanno alzato la tensione, la cura dei dettagli e soprattutto hanno voluto fortemente invertire, diciamo, la rotta in termini di cercare la vittoria e quindi siamo proiettati a questa partita molto molto determinati, molto consapevoli delle nostre forze, sicuramente rispettando una squadra fortissima come il Milan, che sappiamo benissimo quali sono i punti di forza, i loro pregi. Per quanto riguarda Nestorovski, io lo dico sempre, più giocatori ho a disposizione, più sono contento perché ho più soluzioni, posso scegliere con più varianti, avendo più soluzioni davanti, soprattutto per costruire, come sempre, una partita iniziale e una partita, diciamo, in corso. E quindi bene così che Nesto sia a disposizione. Pallanuoto maschile nella 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie A1. La Pallanuoto Trieste ospita la Bruno Bianchi, il Circolo Nautico Posillipo. Il match sarà il primo di una settimana impegnativa per i giuliani, che poi affronteranno la trasferta di Savona in Eurocup e l'anticipo di Bogliasco. Intanto il match odierno sarà fondamentale per i triestini per continuare a inseguire i play-off. L'inizio alle 16. Pallanuoto femminile nell'8ª e penultima giornata di ritorno del campionato di Serie A1 femminile. Alla Bruno Bianchi la Pallanuoto Trieste giocherà contro il plebiscito Padova. Con i play-off già in cassaforte e il quinto posto al sicuro, le orchette dovranno però affrontare nel derby del Triveneto una delle tre squadre più forti della categoria. Il match avrà inizio alle 13.45. Pallavolo femminile, sfida fuori casa per la CDA Talmassons, che oggi sarà impegnata a Trento sul campo dell'Itas Trentino, prima del girone A di regular season e attuale seconda in classifica generale nella pool promozione. Fischio d'inizio alle 17. Sul piccolo di Trieste, in alto, foto orizzontale del presidente russo, mandato d'arresto per Putin, il titolo, e sotto, delitto del seminario, processo azzerato, la Cassazione annulla la condanna di Don Piccoli a 21 anni. Vediamo i richiami in prima di argomenti sviluppati all'interno. Porto Piccolo senza paga ai lavoratori, slitta lo sgombero. Bonus fotovoltaico per i condomini, via al bando regionale. Comitato Acquamarina stufi di inaugurare solo dei rendering. All'interno, sulla pagina di Istria, Quarnero e Dalmazia, fiume in 500 evacuati dal centro città per disinnescare la mina scoperta in porto. L'operazione dalle 22 di oggi alla sera di domani. E un'altra pagina è dedicata alla missione di Tajani in Slovenia e Croazia. La pagina dell'economia approfondisce i numeri del distretto del caffè che fa capo a Trieste, più 17%, un settore che sostiene l'export e punta su Stati Uniti e Cina. Le prime due pagine del fascicolo sulla città sono per lo spettacolo in programma a luglio al Rossetti, Il fantasma dell'opera, il mitico musical di Andrew Lloyd Webber, che debutterà per la prima volta in Italia al Politeama il 4 luglio 2023. Già 10.000 i biglietti staccati acquistati in tutto il mondo. Il concorso degli infermieri è l'apertura del Messaggero Veneto, che in taglio alto ha anche un titolo per la visita di ieri del ministro dei trasporti Salvini in regione. L'edizione di Udine in fotonotizia propone l'argomento del capocronaca, cioè l'apertura in maggio della fiera artiera dedicata all'artigianato. Per la cronaca, il furto di un registro dall'armadio blindato dell'istituto Cecconi. Sul mobile non sono stati trovati segni di effrazione. Da Tavagnacco l'ipotesi di licenziamento della metà dei 100 dipendenti dell'Aquileia Capital Service per esternalizzare i servizi. Il Gazzettino apre sulla consegna alle forze dell'ordine di 160 fototrappole da distribuire sui confini con la Slovenia. L'edizione di Udine in fotonotizia pubblica il Museo Gortani di Tolmezzo, che festeggia 60 anni con un rinnovamento della struttura. Altro servizio, quello che si occupa del perdurare dell'esclusione degli stranieri dal bonus affitti regionale, nonostante l'ordinanza in merito del Tribunale di Udine. L'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. L'apertura della prima pagina. Amianto, altri 7 morti. L'udienza preliminare fissata dal GIP di Gorizia il 5 aprile. Erano lavoratori dell'ex Ansaldo di Monfalcone, deceduti tra il 2013 e il 2016. Vediamo come apre il fascicolo interno del capoluogo. Bastione e teatro tenda. 4 le ditte in corso. Va avanti il progetto Acchiappaturisti, che rigenererà 2 simboli del castello. Il sindaco dice c'è un rallentamento per trattative con la sovrintendenza. Andiamo a Monfalcone, qui si riprende il tema della prima pagina. Lavoratori morti per amianto all'Ansaldo, 7 i decessi. Alcuni avevano operato anche al cantiere navale. Il 5 aprile l'udienza preliminare per 5 indagati. Sotto, un caso di violenza tra adolescenti. Bulli minacciano una ragazzina, nuovo episodio in via Virgiliana. E più sotto ancora, i rincari dell'energia mandano al tappeto la gestione del Palasport. La SD Planet Fighters Box non è riuscita a ottenere i ristori e ha chiesto al comune di rescindere in anticipo il contratto. L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto in fotonotizia pubblica la notizia del decesso di Paul Girolami, 97enne, originario di Fanna e già presidente della multinazionale farmaceutica Glaxo. Capocronaca, il progetto di trasformazione del Bronx in polo universitario, progetto lanciato dall'amministrazione. Da Pasiano la rottura di un tubo alla piscina comunale che ora causa la chiusura dell'edificio per 2 settimane. Il Gazzettino di Pordenone ha in fotonotizia gli alberi piantati in sostituzione di quelli secolari abbattuti causa lavori. ma molte delle nuove piantumazioni non sono riuscite a resistere alla siccità. Spazio poi all'approvazione del piano comunale per l'acquisto di una decina di telecamere da dedicare al controllo degli accessi alla ZTL. Altro servizio, quello sui rilevamenti dell'autovelox sulla Cimpello Sequals, che ha fatto sanzionare decine di auto, di cui alcune viaggiavano oltre 140 km all'ora. C'è poi un articolo sull'aumento dei contagi Covid in regione che ne ha causato l'inserimento tra quelli a rischio moderato nel bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità. Il tenore Andrea Binetti e Cinzia Borsatti, protagonisti dello spettacolo in omaggio di Enzo e Pietro Garinei, in cui saranno ripercorse alcune celebri canzoni dell'epoca della rivista musicale dell'operetta ad Aquileia, nella Sala Romana alle 20. Wunderbar, lavoro liberamente tratto dal testo di Giovanni Marchesan Stiata, diretto da Giorgio Amodeo e Tullio Svettini, sarà in scena a Grado, l'Auditorium Biagio Marina, alle 20.45 sul palco. L'imprevisto processo di trasformazione delle località della costa adriatica da paesini di pescatori a stazioni turistiche e balneari. Il Polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro, interpreterà musiche sacre della tradizione ortodossa e cattolica per il primo appuntamento della rassegna Quaresima in musica a Cormons nel Duomo di Sant'Adalberto alle 20.30, in programma Schubert, Darold e Miani. La rappresentazione è Gerda Taro, una vita ritrovata che narra la storia della compagna del noto fotografo Robert Capa, deceduta a 27 anni nello svolgimento del suo lavoro di fotoreporter, sarà in scena a Gradisca di Sonzo alla Galleria La Fortezza alle 18 con le voci recitanti di Luisa Gastaldo e Patrizia Dughero. L'artista di strada Andrea Antoni, in arte Style 1, dipingerà dal vivo un'installazione con soggetto un paio di ali davanti alle quali sarà possibile fotografarsi. L'iniziativa è inclusa nel cartellone della rassegna Grado Isola delle Donne. Si tiene appunto a Grado al campo Patriarca Elia alle 10.30. La squadra di basket Gesteco Cividale interverrà alla presentazione del libro Un secolo a canestro a Moimacco, a Villa De Claricini Dornpacher alle 11. Nel libro una riflessione su quanto il Friuli Venezia Giulia abbia dato alla pallacanestro italiana a partire dagli anni del secondo dopoguerra. L'assistenza tecnica è stata garantita a questa edizione da Bruno Montevecchi e da Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Alle 7.54 minuti e 50 secondi chiudiamo questa edizione. I prossimi appuntamenti su questa frequenza: alle 12.30 il giornale radio e poi alle 14 su Rai 3 il telegiornale. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cagliazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.